Se cerco di guardare dentro te, troverò una luce che, io lo so, mi abbaglierà. Se cerchi di guardare dentro me, troverai un'arma che invece non ti colpirà. Ho cercato di guardare dentro te, non ho trovato il modo per darti ciò che vuoi. Un passo verso noi, sei solo un'altra foto incorniciata e niente di più. E non ti guarderò mai come mi guardi tu. Baby, non farti film, quello che c'è basta e avanza. Io te in una stanza, per me è già abbastanza. E non chiedere, io non posso darti più di questo. Non chiedermi di restare, perché io non resto. Non chiedermi di crescere, perché io non cresco. Amore, non chiamarmi amore, perché io non riesco. Ti ho sempre usata, questa è la mia arma puntata. È quella di cui sei follemente innamorata. Ma quando tu corri troppo, io metto il freno. Vedi, è molto più forte, chiama di meno. Non credi? Se cerco di guardare dentro te, troverò una luce che, io lo so, mi abbaglierà. Se cerchi di guardare dentro me, troverai un'arma che invece non ti colpirà. Hai cercato di guardare dentro me, non hai trovato il modo per avere ciò che vuoi. Un passo verso noi, l'hai voluto tu, questo amore è impossibile. La storia è andata come era prevedibile, d'altronde lo sapevi che con uno come me, quello che cerchi è ovvio che non c'è, non c'è, non ci sarà un lieto fine a tutto questo. Anche se mi preghi di restare, io non resto e concludo. Da quando hai perso la testa per il mio fare, per il mio essere di ghiaccio, mio essere bastardo, e dopo a tutto ancora mi cerchi con lo sguardo. E sai che dall'inizio che te la stai raccontando, perché quello che non vuoi è quello che stai cercando. Se cerco di guardare dentro te, troverò una luce che, io lo so, mi abbaglierà. Se cerchi di guardare dentro me, troverai un'arma che invece non ti colpirà.